Food Lab, il cibo del futuro e il futuro del cibo, di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. E tutti quegli asini che facevano girare le pietre per spremere le olive, E li riutilizzeranno in un altro modo. Nuove tecnologie come creano disoccupazione. No, parliamo di ultrasuoni e vedrai che applicazione interessante. E gli asini? Abbiamo detto ultrasuoni, abbiamo detto frantoi, asini, quindi parliamo di olio di oliva e lo facciamo insieme a Maria Lisa Clodoveo, benvenuta qui a Food Lab. Grazie dell'invito, vi ringrazio. Benvenuta. Lei è docente di Scienze e Tecnologie Alimentari all'Università di Bari Aldo Moro ed è anche responsabile di un progetto scientifico che in parte abbiamo introdotto, che si chiama Ultra Dop Olive Oil, che appunto si occupa di olio di oliva, che sembrerebbe sia molto efficiente produrre con gli ultrasuoni, cioè effettuare la spremitura delle olive con gli ultrasuoni. Questo sembrerebbe il futuro, però ci deve raccontare. Perché oltre ad essere un progetto di ricerca che lei ha seguito, è diventato realtà, nel senso che viene davvero utilizzato in un frantoio. Sì, allora cominciamo col dire che l'ultima grande rivoluzione nel settore dell'olio extravergine di oliva si è avuta negli anni '80, quando siamo passati dal sistema a pressione al sistema continuo, quindi quello centrifugo. Questo sistema è impropriamente detto continuo perché tra il frangitore, cioè la macchina che rompe le olive, e l'estrattore centrifugo, la macchina che separa l'olio, c'è una fase che è detta di gramolazione, cioè una lenta agitazione della pasta a temperatura controllata che può durare 45-60 minuti. Questo è un punto critico perché è in questa fase che si crea o si distrugge la qualità ed è in questa fase che il prolungamento del tempo che garantisce le rese di estrazione può rappresentare un pericolo per la matrice. Ah, quindi più tempo sta, peggio è per l'olio che ne esce. Sì, più rischia di ossidarsi la matrice, okay. Quindi di avere una qualità inferiore e un tempo di vita inferiore. Sì. Ma mi scusi, perché in 45 minuti può partire un processo di ossidazione? Quindi allora, lei deve sapere che l'ossidazione è un processo inevitabile nella matrice, che parte dal momento in cui la drupa è staccata dall'albero. Quindi più tempo intercorre tra la raccolta e la lavorazione, più la matrice andrà incontro a un'ossidazione sia di tipo chimico che enzimatico. E nell'ambito dell'estrazione, quando tutte le cellule sono state rotte, migliaia di enzimi ad attività ossidatica aggrediscono sia quindi la matrice. È un'aggressione immediata. È immediata. Quindi lo scopo di un'innovazione deve contemplare tre obiettivi: rendere più breve il processo, renderlo più efficiente, sia estraendo quanto più olio possibile, perché noi molto lo lasciamo nei sottoprodotti, sia efficiente dal punto di vista energetico. Okay. E il terzo obiettivo è innalzare la qualità, soprattutto dal punto di vista delle molecole ad interesse nutraceutico. E dallo studio che avete fatto è emerso che in effetti gli ultrasuoni hanno tutti questi vantaggi, queste caratteristiche. Allora, partiamo da un principio. Gli ultrasuoni sono un'onda sonora che si propaga nello spazio. Nella propagazione attraverso la pasta di olive, cosa accade? Generano un fenomeno noto come cavitazione, cioè i liquidi contenuti all'interno della pasta di olive, a causa dell'onda ultrasonica, vaporizzano creando delle microbolle che, implodendo, rilasciano energia meccanica e una blanda energia termica. L'energia meccanica rompe ulteriormente le cellule, rilasciando l'olio, ma soprattutto rilasciando i composti minori ad interesse nutraceutico, in un tempo molto inferiore a quello che fa l'agitazione durante la gramolazione grazie all'azione meccanica dei frammenti di nocciolino. Qual è il risultato? Siamo riusciti a ridurre il tempo di processo ad un terzo rispetto al tradizionale. Quindi un quarto d'ora. Sì, un quarto d'ora. Riusciamo a estrarre quantità paragonabili di olio, quindi cosa significa? La gramolazione si prolunga perché l'olio ha necessità di coalescere, cioè di unirsi tra le varie goccioline per creare delle gocce di dimensione sufficiente ad essere separate. Okay. Noi riusciamo ad ottenere questo effetto di coalescenza in un tempo molto rapido, ma soprattutto l'olio che abbiamo ottenuto è ricchissimo chiamiamo in sostanze antiossidanti, perché questo effetto meccanico rompe le cellule dell'epicarpo rilasciando tocoferoli, carotenoidi e polifenoli. L'effetto macroscopico è anche un olio più verde. È vero che il colore non è indice di qualità, ma è vero anche che il consumatore è attratto. Però ovviamente all'interno dello studio avete fatto tutto una serie di accertamenti dal punto di vista appunto delle proprietà organolettiche e nutritive di quello che è il risultato dell'olio che ottenete, e in effetti vi siete accorti che oltre ad essere più verde è anche più, in qualche modo, più sano. Oltre ad essere un olio più sano, un profilo organolettico più equilibrato. Questa cosa rappresenta un'innovazione, perché in genere quando si estraggono più sostanze antiossidanti, soprattutto polifenoliche, l'olio tende ad essere più amaro e piccante. Il risultato invece al panel è stato quello di raggiungere un equilibrio organolettico che lo potrà rendere anche particolarmente gradito al consumatore. Senta, infine, dal punto di vista, diciamo, meccanico, cosa c'è? C'è un involucro nel quale voi buttate le onde? Noi, nel caso dell'azienda Loia, le faccio questa premessa, nel caso dell'azienda Loia, perché il primo prototipo, ora ne abbiamo sviluppato ora. Ecco, l'azienda Loia, forse non l'abbiamo detto, è l'azienda molisana che sta utilizzando. Che si è aggiudicata il finanziamento. Ok. Sì. Abbiamo realizzato uno scambiatore di calore doppio tubo, dove realizziamo al contempo lo scambio termico che avveniva nella gramola e il trattamento ultrasonico. L'idea è stata vincente ed è stata ulteriormente premiata anche dalla Regione Puglia. Infatti l'Università di Bari, sull'idea dell'ultrasuono nel processo di estrazione dell'olio, ha vinto un finanziamento di 150.000 euro per un ricercatore a contratto. E per noi questo è un... Certo, immaginiamo. Un bel colpo, dai. Quindi, insomma, ci aspettiamo che questa tecnologia si diffonda. Allora, le dico che tutte le aziende che producono impianti si sono affacciate a questa tecnologia, e questo significa che non è un'idea che rimane chiusa in un laboratorio, ma i maggiori produttori internazionali di impianto ci stanno pensando. Ecco. Impianti in scala reale. Va bene. Grazie davvero, Clodoveo, e buona ricerca e buon proseguimento di lavori. Grazie. Buon lavoro. E per oggi è tutto, Federico. Torniamo a raccontare le tecnologie del cibo e dell'alimentazione nella prossima puntata di Food Lab. A presto qui.